Buon pomeriggio e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko a Livia Mabilino, presidente dell'Associazione Teatro Duse e Teatro Stabile di Trieste. È una giornata emozionante per il teatro, finalmente si riapre, siamo qui in conferenza per parlare di questa nuova rassegna, di questa nuova stagione. Qual è l'emozione appunto di poter finalmente riaprire le porte al pubblico, rivedere queste poltrone di nuovo occupate? Dopo 20 mesi certamente è una grandissima emozione poter presentare la nuova stagione al Teatro Duse, che è uno dei più bei teatri di Bologna, il salotto buono come lo definiscono, e recuperare tanti spettacoli e tanti presentarne di nuovi. Quindi abbiamo una nuova stagione con 14 titoli, ma poi tantissimi fuori abbonamento, tantissimi recuperi, concerti, danza, teatro, quindi veramente un programma ricchissimo. Un programma appunto che vede tantissime date recuperate, quindi possiamo ben constatare una forte emozione anche da parte degli artisti a voler tornare in scena, a voler riprendere il proprio spazio che non hanno potuto occupare in questi ultimi 2 anni. Vuole darci qualche anticipazione su questa stagione che è, appunto, abbiamo detto, ricchissima? Beh, intanto vorrei così a random dire alcuni nomi, insomma: Lino Guanciale, Massimo Popolizio, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Anna Maria Guarnieri, Angela Finocchiaro, Stefano Accorsi, Marco Travaglio. Sono talmente tanti e sono talmente importanti questi nomi che rendono tutta la ricchezza della nostra stagione. Intanto volevo dire una cosa: che domani alle 15 riapre gli abbonamenti, gli abbonati hanno appunto la prelazione rispetto agli altri, quindi naturalmente tutti voucher degli spettacoli che noi riproponiamo sono validi, quindi queste sono delle piccole notazioni tecniche ma importanti per chi ci ascolta. E poi naturalmente, diciamo, con cosa cominciamo? Cominciamo con Lino Guanciale nello spettacolo Itaca, il viaggio, quindi che è appunto un viaggio di Ulisse ma tutto suo, in cui anche Lino Guanciale si presenta. E poi abbiamo uno spettacolo a cui io tengo tantissimo, che è Furore di Steinbeck con Massimo Popolizio, uno dei più bravi, più importanti attori italiani. E poi dopo abbiamo sempre in ordine, in qualche modo cronologico, Solenghi Lopez con il loro show, poi abbiamo Giobbe Covatta e Pino Quartullo con Hollywood Burger, che è appunto la storia di due attori hollywoodiani sfortunati nella loro impresa di diventare divi, e poi tantissimi altri ancora. Una stagione molto poliedrica, dalla prosa ai concerti, un sacco di spettacoli di teatro alternativo, teatro circense, quindi possiamo dire anche che una parola caratteristica di questa stagione è la collaborazione con i diversi stili. Come sempre noi presentiamo una stagione che è composta da teatro di prosa, dove ci sono classici contemporanei, dove qualsiasi spettatore può trovare quello che gli piace, una nutritissima naturalmente serie di concerti, e io non posso nominare Gianni Morandi, che è venuto qui e da pochi minuti se n'è andato via e che è diventato una sorta di testimonial del nostro teatro dopo aver fatto 23 sold out. Adesso riprenderà in gennaio altri spettacoli ancora con noi, chissà quando finirà, è una esclusiva nazionale nostra di cui andiamo orgogliosissimi. Ma non solo questo, c'è anche jazz, musica contemporanea, c'è danza, quindi veramente un programma che noi riteniamo completo. Un programma che non vediamo l'ora di vedere e che riafferma comunque il Duse come un pilastro dei teatri qui a Bologna. Ringraziamo Livia per essere stata qui ai microfoni di Radio Città Fujiko e buona giornata. Buona giornata a voi.